9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano di dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Buongiorno cari ascoltatori da Simone Spezia, cari ascoltatrici e benvenuti a 9 in punto. Questa mattina ci occupiamo naturalmente in parte anche delle consultazioni, ma soprattutto di quello che attende l'eventuale nuovo governo che si formerà. E cercheremo di riportarvi anche qualche eco in questo 2013 pieno di eventi, pieno di fatti, non solo la politica naturalmente, ma anche un papa che si dimette, un evento incredibile, pazzesco, e la nuova elezione con questo, in Italia, per quanto riguarda l'Italia, questo Parlamento che cambia radicalmente, questa sorta di assedio al Fortino del quale vi abbiamo lungamente raccontato anche nel post elezioni, quel arrendetevi, siete circondati, di Beppe Grillo da Piazza del Duomo a Milano, che tanto eco, tanto scalpore ha fatto. Cercheremo di ritornare un po' sulla storia. A 20 anni fa, proprio 20 anni fa, il 1993, anno di appunto di grandissimi eventi, se viene segnato l'inizio di Tangentopoli come il 1992, viene indicato il 1992 come data, in realtà il grande sviluppo di quello che ha portato alla fine della cosiddetta Prima Repubblica è esattamente il 1993. Lo spunto ci è venuto da un bel pezzo, un bel racconto che abbiamo trovato su il magazine mensile del Sole 24 Ore, del quale saluto il capo, il direttore Cristian Rocca, buongiorno. Però ci dicono che è caduto. Ebbene, però iniziamo allora con le cose da fare, le cose che si troverà da fare questo governo. Mancano 102 giorni all'aumento dell'IVA. E così abbiamo trovato un nuovo tormentone, così ve lo ricorderemo tutte le mattine, perché è una cosa che è stata completamente ignorata o quasi in campagna elettorale. Hanno parlato tutti dell'IMU senza ricordare che c'è una scadenza già pronta, l'aumento dell'IVA dal 21 al 22%, sul quale forse toccherà intervenire per evitare danni ulteriori all'economia. Chissà, insomma. Vedremo che cosa succederà, vedremo se qualcuno ci metterà a bocca. Come si diceva, saluto Cristian Rocca, direttore di il magazine del Sole 24 Ore. Cristian, buongiorno. Buongiorno. Un magazine, io lo dico non perché è il mio gruppo editoriale, secondo me è il miglior mensile su piazza in questo momento, sia dal punto di vista grafico sia dal punto di vista delle idee, e qua appunto nello scorso numero che trovate ancora in edicola si è sviluppata questa idea del 1993. Saluto anche una persona che questo 1993 l'ha vissuto molto intensamente, Paolo Cirino Pomicino, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a radioascoltatori. Ex ministro e parlamentare, lo sapete, è stato presidente della Commissione Bilancio, ministro della Funzione Pubblica, ministro del bilancio dall'89 al 92, e è proprio il 93 l'anno nel quale lei fu raggiunto da un avviso di garanzia, tra l'altro, Pomicino, se non ricordo male. Sì, naturalmente, essendo pieno d'amore, fu raggiunto il giorno di San Valentino, il primo avviso di garanzia. Che vuole fare, ognuno ha il suo destino. Naturalmente poi prosciolto dopo 15 anni, ma che vuole fare? Saluto anche Alessandro Barbera della Stampa, buongiorno. Buongiorno a voi. Col quale parliamo un po' più di futuro. Nei giorni scorsi avete pubblicato una bella paginata sulle cose che restano da fare in ballo per questo governo. Alessandro, hai sentito l'inizio, questo nuovo tormentone che abbiamo deciso di dare, e poi ne decideremo bene il piazzamento. Ricordiamo che da oggi mancano 102 giorni all'aumento dell'IVA, quindi insomma i partiti, il governo, insomma, si mettono d'accordo perché c'è anche questa scadenza, oltre alla scadenza sottintesa ormai naturalmente del pagamento dell'IMU. Allora voglio iniziare da Pomicino. No, che è caduto stamattina. Abbiamo molti, molti, molti problemi di linea, evidentemente. Allora, iniziamo da Christian Rocca e parliamo di questo 1993, insomma, Christian, che io non so quanto te lo ricorda. A me questo clima, appunto, di assedio, di assalto al fortino, ricorda molto quell'anno. Insomma, io ero molto giovane, naturalmente, però, insomma, le cronache le abbiamo lette tutti, ero abbastanza grande da ricordarmi i fatti. Qualcosa che ce lo ricorda c'è? Intanto grazie per le parole che hai usato per il mensile, di cui siamo molto orgogliosi, e ovviamente sì, qualcosa c'è, se no ovviamente non ce ne saremmo occupati di un così ampio spazio sul nostro magazine. Diciamo che manca, per fortuna dico, la drammaticità di allora. Io invece, che sono un leggermente più vecchio di te, me lo ricordo. Quel 93 è stato un 93 non segnato da dimissioni del Papa o da come dire, partiti nuovi che arrivavano in Parlamento e dicevano arrendetevi, siete circondati, ma è stato segnato da suicidi, da attentati mafiosi. Questo tutto sommato è comunque l'anno dove un procuratore antimafia viene eletto presidente del Senato, però diciamo non c'è la drammaticità se non quella della crisi economica, e c'è un po' la farsa, questo sicuramente sì, però gli elementi sono molto simili. Quello è stato un anno zero in Italia e questo sembra essere un anno zero probabilmente a compimento di questo ventennio, diciamo, guidato di questo ventennio della Seconda Repubblica, che tante speranze aveva ispirato e che però è finito, sta per finire o è finito nella cenere così come era cominciato. Abbastanza miseramente, a dire il vero, insomma, no? Perché ci ritroviamo vent'anni dopo più o meno sostanzialmente con gli stessi problemi che abbiamo vent'anni prima. Pomicino, a lei che effetto le fa questo 2013? Che cosa le sembra, insomma? Ma con chi parlate? Con lei Pomicino. Con lei, perché ogni tanto è traduta la linea. Lo so, io invece. No, ma io non vedo assolutamente alcuna rispondenza tra il 93 e il 2013, perché voi nel 93 raccontate in genere, come ho detto ad un autorevole giornalista qualche giorno fa, raccontate l'inizio, poi però non raccontate come è finita, è vero, le migliaia e migliaia di assoluzioni. Ma innanzitutto, al di là delle vicende giudiziarie, noi avevamo ancora una economia salda, nonostante la svalutazione, che peraltro aiutò in quel momento la ripresa economica, ma la cosa più importante è che allora c'era ancora una parvenza di politica. Poi per vent'anni questa politica non c'è stata più. Faccio un solo esempio. Questa mattina sulla stampa l'onorevole Bersani ha ricordato il precedente di un monocolore, di un governo monocolore del 76, il monocolore Andreotti, sostenuto dalla non astensione, dalla cosiddetta non sfiducia. Quella non sfiducia fu figlio di un accordo politico. Noi abbiamo nella stagione attuale, sul terreno politico, che tre minoranze non si parlano, non si siedono intorno a un tavolo e pensano di andare a mare aperto in Parlamento come se si andasse a vendere una mercanzia in un mercato. Per dirci, Bacco, le grandi forze politiche, le grandi forze nazionali hanno il dovere di sedersi intorno a un tavolo, comunque fosse anche per registrare la incompatibilità assoluta delle rispettive situazioni. In più, aggiungo il termine, ho sentito in uno spezzone di collegamento un signore, un imprenditore, che diceva che l'Italia sta morendo, ed è vero, ci sono imprese, famiglie, riaffannano, è ricomparsa la fame in larga parte della popolazione. Allora, le tre minoranze devono sedersi intorno a un tavolo, la quarta minoranza, quella di Monti, è pronta, perché Monti non appena si libera un po' è sempre disponibile, quindi non c'è verso da quelle parti, però ripeto, fino adesso non ho visto la responsabilità nazionale di nessuna delle tre forze. Lei, se non sbaglio, tra l'altro, visto che stiamo parlando alla fine, sì, insomma, ci sono le due forze, PD e PDL, e poi c'è questa terza forza che si è imposta durante queste elezioni, che è il Movimento 5 Stelle. Lei, se non sbaglio, ha detto, ho letto questa dichiarazione da qualche parte, Grillo ha una funzione democratica, tiene negli schemi milioni di incazzati. Lo riconfermo, lui ha una funzione democratica istituzionalizzando il disagio senza della quale iniziativa probabilmente quel disagio avrebbe costituito un terreno di cultura per anche violenze che abbiamo già conosciuto in questo paese. Detto questo, però, chi ha poi raccoglie il 25% ha un dovere verso il paese, un dovere nazionale che è tipico delle forze che superano una certa quota di consenso. Invece ci sembra che siamo dinanzi a una descrizione ormai sfarinata del sistema politico, e io sono convinto che se l'onorevole Bersani facesse quello che fece Aldo Moro nel 76, di chiamare a un confronto. Niente, oggi abbiamo veramente dei problemi di telefoni pazzeschi. Speriamo invece che Alessandro Barbera, collega della stampa, regga. Speriamo che e trovarono l'intesa. L'intesa, ripeto, di un governo a termine, sia chiaro, perché si tratta sempre di questo. Sì, la perdiamo un po', Pomicino, perché so che è in treno. Alessandro Barbera, si parlava del 93. La realtà è che poi il 93 segna comunque un momento nel quale di fatto dal guado l'Italia era sostanzialmente uscita, almeno dal punto di vista economico, mentre invece qua in mezzo al guado ci siamo ancora, insomma. Cosa ha in ballo questo governo, a parte le nuove vicende che abbiamo raccontato nei due giorni scorsi, la vicenda di Cipro e quindi, come dire, la scarsa attenzione che in questo momento la politica sta prestando alle questioni europee, che poi sono quelle centrali, no? Che cosa c'è in agenda oltre all'aumento dell'IVA? Ma insomma, fuori dal guado, per la verità, diciamo, i paragoni con il 93 sono più appropriati, secondo me, di quanto non dica più un Pomicino. Eravamo appena usciti da una manovra economica da 90.000 miliardi, Amato aveva prelevato dai nostri conti correnti 6 per 1000, non c'era ancora stato il governo Prodi che ci imporrà l'eurotassa. Ed esattamente come allora c'era un homo novus sulla politica, sulla scena politica, allora era Berlusconi, oggi è Grillo, quindi diciamo, e c'era la magistratura debordante, c'è una definizione felicissima di Antonio Polito qualche giorno fa sul Corriere. E in realtà siamo in una situazione molto simile, con una differenza sostanziale, che allora eravamo ancora fuori dall'Europa, fuori dalla cintura dell'euro. Oggi ci siamo dentro. Io credo che se oggi non avessimo quella cintura di sicurezza, probabilmente il disastro di fronte al quale saremmo sarebbe molto, ma molto più grave di quello che in questi giorni stiamo affrontando. Immaginate cosa sarebbe significato affrontare fuori dalla cintura europea un debito pubblico al 130% del PIL, un'instabilità politica così marcata, perché diciamo nel 93 più o meno un governo si stava formando, un governo c'era, un altro si stava formando. Oggi di un governo non ne abbiamo traccia per il momento. Per nostra fortuna c'è un governo un po' più largo del nostro, questo va ricordato a chi vorrebbe farci uscire dall'euro e pensa che così risolveremo i nostri problemi. C'è una cintura di sicurezza che tutto sommato ci permette di stare ancora, di poterci permettere di stare senza governo, senza per questo pagarne un prezzo troppo alto. Peraltro, diciamo, per fortuna il governo che c'è, abbiamo un Presidente della Repubblica che ha voluto che il governo che c'è e che è in carica ormai da molte settimane per gli affari correnti stia facendo cose che normalmente in condizioni normali non dovrebbe fare. Ha trattato con l'Europa una deroga al patto di stabilità europeo per poter fare spesa per investimenti, per poter fare spese per aumentare l'occupazione, non le ha ancora fatte, ma siamo in dirittura d'arrivo. Quindi diciamo, io sinceramente vedo un paragone molto forte e paradossalmente, per quanto possa sembrare paradossale, mi sento molto più tranquillo oggi di quanto non eravamo allora. E ciò detto, però, naturalmente ha ragione Pomicino quando dice che i partiti che si ritrovano tecnica dovrebbe decidere se formare o meno un governo, stanno un po' giocando a passarsi il cerino senza rendersi conto che l'incendio potrebbe accendersi da un momento all'altro. Tu ricordavi l'aumento dell'IVA, si dovrebbe dire anche che il 1° luglio dovrebbe arrivare la nuova TARES, la nuova tassa sui rifiuti, che aumenterà circa del 30% i costi per i cittadini. Abbiamo una serie di cose che dovremmo fare che non abbiamo ancora fatto. Dobbiamo presentare in Europa il documento di economia e finanza, dobbiamo presentare in Europa il piano nazionale delle riforme. A Bruxelles cominciano a chiedersi: ma che cosa succede in Italia? È possibile che l'unica cosa sicura che ci sentiamo dire è che forse tornano a votare a luglio? Sì, questo è quello che al momento si chiedono in Europa. Vedremo che cosa emergerà dalle consultazioni. Nel frattempo, insomma, vi ricordo che sui giornali potete trovare di tutto, perché nell'idea di fare questo tentativo di formare un nuovo governo, secondo le indiscrezioni che stanno circolando, Bersani starebbe pensando naturalmente a nomi condivisibili anche dal Movimento 5 Stelle, e sta girando qualsiasi cosa a livello di nomi, tanto che un collega, non mi ricordo su quale giornale, chiude il pezzo con una citazione di Verdone, insomma, su questo governo: famolo strano, insomma, perché non si sa esattamente quali nomi ci possano entrare. Vedremo che cosa succederà naturalmente da questo lato. Noi intanto ci prendiamo una pausa. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta: l'800 24 00 24, 9 in punto l'hashtag su Twitter, al quale naturalmente potete scriverci, oppure potete scrivere direttamente a me, Simone Spezia. Ci fanno delle domande, Pomicino, glielo preannuncio, a proposito del fatto che Monti è stato un suo collaboratore, e poi invece ce n'ho una io su una vicenda che continua a circolare di una presunta telefonata tra lei e Beppe Grillo. Poi ne parliamo dopo la pausa. 9 in punto. Io non sono euroscettico, sono sempre stato un euroentusiasta, però se devo essere governato da un euroscemo, forse cambio anche atteggiamento. Ed eccoci, stiamo pescando qualche ascoltatore in giro dalle telefonate che riceviamo tutti i giorni, proprio, insomma, anche per sottolineare la vostra opinione. Voglio iniziare a sentire qualche ascoltatore. Alessandro Cina da Pavia, buongiorno. Dunque, brevemente, nel 93 avevamo ancora una Banca d'Italia che stampava denaro, questo lo ricordo perfettamente, l'economia girava abbastanza bene. Ora siamo in un momento drammatico, perché questi signori che parlano di cintura di sicurezza con l'euro dovrebbero farsi due passi per le città e vedere il disastro, la drammatica situazione dell'economia italiana. Questa gente continua a parlare a vanvera, ma non si sta accorgendo che l'Italia sta affondando. Ma sta affondando, sentirete che tonfo farà l'Italia, grande e grosso. Questa è veramente una cosa inconcepibile, drammatica. Questa è la sua opinione, grazie Alessandro. Sentiamo anche Marco che ci chiama da Bologna, buongiorno. Buongiorno, niente, io quello che semplicemente volevo dire è che fino ad ora il fatto di non avere molto seguito l'idea europeista, ma più forse adesso quella non europeista, è stata poi anche colpa, tra virgolette, di chi ci sta governando, nel senso che ci sono possibilità e voglia da parte delle persone di aprire anche nuove attività legate all'agricoltura, ma non c'è la possibilità di farlo, cioè o uno ha 200-300 mila euro da parte, ma il che diventa veramente impossibile aprire delle nuove attività. Le automobili stesse si lamentano che c'è un calo dell'automobile, ma in Europa, ma chi è che compra un'automobile che va a benzina? Dovrebbero cambiare il tipo di carburante, dovrebbero fare un prodotto attuale, ma l'automobile fatta così non è un prodotto attuale, è un prodotto di 25 anni fa. Grazie Marco. Alessandro Barbera, ce l'hanno con te, ci dice l'ascoltatore, altro che cintura di sicurezza, l'euro ci ha ammazzato. Ci ha ammazzati. È un'opinione che ahimè sta prendendo molto piede. Naturalmente bisognerebbe chiedere all'ascoltatore se pensa che l'economia del 93 era la stessa del 2013, se i paesi emergenti, se l'economia aveva spostato i suoi punti nevralgici in Brasile, Cina, nel sud-est asiatico. Non è così semplice, non è addossando tutte le colpe all'euro che risolviamo i nostri problemi e capiamo quella è la via d'uscita. È evidente che dentro alla cintura dell'euro ci sono delle cose che non funzionano, questo è assolutamente chiaro, credo anche ai tedeschi, che sono i primi a da un lato averne grandi vantaggi, dall'altro enormi rischi. Ciò detto, naturalmente bisognerebbe anche chiedersi se non ci fosse l'euro, che cosa ne sarebbe di noi, perché il nostro debito pubblico non è al 130% del PIL per colpa dell'euro. Il nostro debito pubblico è al 130% del PIL e ci costa 90 miliardi di euro di interessi tutti gli anni, perché abbiamo accumulato questo debito, perché la recessione procede da molti anni, perché molte banche in Europa, non quelle italiane per fortuna, molte banche in Europa e negli Stati Uniti, negli anni in cui l'economia girava, come diceva l'ascoltatore, hanno fatto cose che poi abbiamo pagato tutti, cioè si sono indebitato fino al collo con strumenti che hanno sostanzialmente creato enormi masse di debito che poi il decisore pubblico si è dovuto accollare. L'euro non c'entra nulla con tutto questo. Pomicino, forse sì, posso aggiungere. Sì, forse l'abbiamo recuperata. No, la sua opinione è particolarmente interessante perché tra l'altro lei era ministro nel governo che firmò Maastricht, che era l'Andreotti 6, forse, esatto. Se non sbaglio. Esatto. E le aggiungo, io sono totalmente d'accordo con Barbera. Oggi senza lavoro, con la crisi internazionale che si è scatenata, che ha origini finanziarie prima ancora che di economia reale, noi saremo un paese allo sbando. Ma c'è un altro dato più semplice, sul quale non va dimenticato. Da 20 anni le politiche nazionali non esistono più. L'Italia non cresce, non da un anno, non cresce dal 95, e i nostri salari sono i più bassi dal 95. Allora, prima ancora che arrivasse l'euro. Allora, il dato reale è che l'euro oggi attenua i rischi che noi potremmo avere senza la moneta unica. Detto questo, però, non basta la moneta unica a salvaguardarci. Io voglio dare un solo dato, perché poi ci capiamo. Insomma, la Prima Repubblica in 40 anni ha dato 809 miliardi di euro. Oggi è micidiale con i numeri di telefono, come prendono anche Cristian Rocca, siamo riusciti a recuperarlo adesso perché insomma continua a cadere la linea. Cristian, ci sei? No, non c'è nemmeno Cristian Rocca. Sentiamo Giuseppe che ci chiama da Palermo, buongiorno. Buongiorno, io volevo intervenire sull'eventuale formazione di un governo. Io penso che con Berlusconi è impossibile fare un governo, perché dopo la manifestazione che è stata fatta dai deputati del PDL, non si sono resi impresentabili anche loro, come diceva la Lucia Annunziata, non è che ha detto ad Alfano impresentabile il PDL dopo questa manifestazione. Io spero che un governo si possa fare, che Grillo possa comunque. Lei cosa ha votato, Giuseppe? 5 Stelle? Io ho votato PD, ho votato Partito Democratico, perché io comunque penso che sia l'unica alternativa per un futuro migliore. Questo io è quello che penso, io ho questa speranza. Grazie Giuseppe, sentiamo Giovanni che ci chiama da Milano, buongiorno. No, è caduta la linea pure con Giovanni. Madonna santa, stamattina è una cosa micidiale con i numeri di telefono. Forse abbiamo recuperato Pomicino. C'è? No, non c'è nemmeno Pomicino. Cristian Rocca? Nemmeno. Sei rimasto da solo, Alessandro Barbera, e però abbiamo recuperato Giovanni che ci chiama da Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci. Senta, io ho un'opinione forse che somiglia a quella che diceva prima l'ex onorevole Pomicino. E però non siamo in grado di sentirla questa opinione perché evidentemente abbiamo dei grossi problemi di linea in questa mattinata. Allora, andiamo a leggere qualche tweet, va, che così ci prendiamo un attimo di respiro. Valerio ci scrive che c'è un silenzio assordante del governo italiano e dei leader politici sulla questione di Cipro. Ci chiede se è una coda di paglia. Non so se è coda di paglia. Certo, sono due giorni che noi, nei due giorni precedenti, se volete andate a riascoltarvi le trasmissioni, abbiamo trattato l'argomento. È naturalmente quella di Cipro una questione centrale, ma non tanto e non solo per il prelievo forzoso ai conti correnti, che peraltro è stato bocciato ieri dal Parlamento, creando ancora maggiore confusione, ma è una questione centrale perché riguarda la questione del governo dell'Eurozona. L'abbiamo bene affrontato ieri, tra l'altro anche con Emma Bonino. Il punto è che c'è una Germania che pur pretendendo di essere al centro delle decisioni, fatica ad assumere, anzi non vuole assumere la leadership dell'Europa. In questo momento siamo sostanzialmente ostaggio dei tedeschi, tanto che, come si diceva ieri, è stata ritenuta persino verosimile, anche se non verificata, l'ipotesi che i tedeschi avessero chiesto un 40% di prelievo forzoso dai depositi. Verosimile, non verificata, però immaginate se fosse stata una cosa di questo genere. Comunque vuol dire che evidentemente, insomma, qualche problema c'è. Ritornando ai temi di legislatura, adesso una piccola spigolatura, se vogliamo, mi dicono che è ricaduto Pomicino. Volevo fare una domanda a Pomicino. Abbiamo di nuovo Paolo Cirino Pomicino, eccolo qua, pronto? No. Stamattina è un inferno telefonico, continuano a cadere. Vediamo se invece abbiamo recuperato Cristian Rocca. Cristian, ci sei? Sì, è un dramma telefonico questa mattina, insomma, manco fossimo nel 93, diciamo, insomma, a livello di campo dei telefoni. Cristian, immagino che tu, insomma, abbia sentito qualche brano comunque della conversazione. Facciamo così, spostiamoci sul futuro e vediamo un attimo anche che cosa ti attendi dall'inizio di queste consultazioni. Come abbiamo detto, oggi iniziano a circolare nomi di qualsiasi tipo per questo governo che Bersani vorrebbe formare, nomi ai quali si presume che il Movimento 5 Stelle non possa dire di no, e però, appunto, come scrive un collega oggi, vi ripeto, poi mi ricorderò su quale giornale l'ho letto, ve lo metterò su Twitter, se volete seguitemi, Simone Spezia, dice il clima è un po' verdoniano, famolo strano. Insomma, che cosa dobbiamo aspettarci secondo te da queste consultazioni? Ma sul famolo strano, diciamo, la cosa incredibile di questo paese è che l'unico modo di farlo normale, come si dovrebbe essere in tutti i paesi appunto civili, cioè quello di un accordo tra le due maggiori forze non estremiste, non anti-europee, non anti-euro, cioè quelli che peraltro hanno governato con Monti negli ultimi due anni, questa viene considerata stranissima, impossibile, impraticabile, e per cui si cercano tutte queste alchimie incredibili che non porteranno ovviamente da nessuna parte, perché una maggioranza tra grillini o esodati del grillinismo e Bersani ovviamente non c'è e non ci può essere. Tra l'altro dovrebbero esserci anche quelli di Monti per essere comunque vicini alla maggioranza al Senato. Questa maggioranza non c'è, e la vera differenza col 93 oggi è esattamente questa, che nel 93 c'era questo disastro, c'erano queste macerie, c'è stato questo cambiamento politico, è crollato il sistema che ha tenuto l'Italia nel dopoguerra, cioè da una parte un partito legato all'Occidente, agli Stati Uniti, dall'altro il Partito Comunista, ma si è votato nel 94, cioè si è votato l'anno successivo. Il vero problema di adesso è che siamo in una situazione simile sotto questo punto di vista di cambiamento della classe politica, ma a elezioni già avvenute. E quindi finché non ci saranno, secondo me, delle elezioni successive, probabilmente saranno sempre in questo 2013, il vero cambiamento, la vera spinta, il vero nuovo inizio, che comunque in qualche modo 20 anni fa, sulla spinta anche della globalizzazione, della situazione economica internazionale favorevole, di un nuovo inizio che con Clinton alla Casa Bianca, con la fine dell'apartheid in Sudafrica, con mille altri eventi sembravano, come dire, voler cambiare, e addirittura c'era chi parlava di fine della storia perché talmente era tutto, l'aveva vinto la democrazia liberale ovunque. Ecco, quella cosa lì adesso non c'è perché siamo ancora un po' ingarbugliati con la situazione precedente. Ci scrivete, a proposito di tutte queste linee che cadono, ci scrivete, forse sono quelli del Movimento 5 Stelle che vi hanno hackerato il telefono dopo lo scherzo di Giuseppe Cruciani a Francesco Campanella, il senatore del Movimento 5 Stelle. Vi ricordo tra l'altro, a proposito di quello, che lo sapete, c'è una persona, un imitatore, Andro Mercu, che si è finto Vendola e insomma di fatto ha proposto a Campanella un accordo che ha detto no. La trovate sul nostro sito www.radio24.it. 9 in punto. Ci scrivete, tornate al Telex ancora, ma avete pagato la bolletta? Sì, abbiamo pagato la bolletta e ci suggerite anche l'uso di Skype nella fattispecie, insomma, adesso no. Tenderemo a rimanere sui telefoni per il momento. Pomicino, me la dice una cosa, ma questa cosa che circolava di una telefonata tra lei e Grillo, che Grillo ha raccontato in uno spettacolo, è vero oppure no alla fine? Perché... No, in parte è vero, nel senso che eravamo nel 2004-2005, io ero deputato europeo, e il movimento di Grillo era agli albori, e in realtà disse una sciocchettuola, come spesso ci capita di fare, e allora io lo corressi mandandogli un'email e naturalmente gli detti anche 50 euro per sostenere il movimento stesso. A quel punto non mi mandò a vaffa, come si suol dire, ci prese 50 euro e sono stato contento. Poi però ha scritto che io scambiavamo lettere, non era vero. Ci fu soltanto questo episodio in cui io dovetti correggere una sua sciocchezza, punto. Ma che impressione le fanno questi nuovi entrati del Movimento 5 Stelle? Ma sono italiani brava gente, ma le sembra possibile che insomma si vada a legiferare per una società moderna e inquieta, quella italiana, gente che non ha avuto nessuna esperienza? Ma per principato in tutti i paesi moderni si arriva a legiferare, essere legislatori, quando si è fatta un'esperienza di consigli comunali, di consigli regionali, di grandi altre qualità. Ma non è possibile immaginare, anche adesso vi sentivo in uno scorcio di ascolto che il treno mi consentiva, ho sentito i nomi dei nuovi ministri, ma veramente è un paese serio quello che immagina di mettere al governo persone che non hanno avuto alcuna esperienza parlamentare? Ma veramente siamo ormai orientati a buttare il paese alla deriva, oppure c'è bisogno di un minimo di professionalità, di conoscenza della macchina dello Stato, delle grandi questioni nazionali? Un grande giornalista, parlo del mio amico Massimo Montetti, un grande giornalista non è mica per forza un politico autorevole in grado di poter fare oggi il ministro senza un minimo di esperienza parlamentare, e viceversa naturalmente un grande avvocato, un grande medico può essere un grande legislatore, ma ha bisogno di esperienza oltre che di talento. Poi invece abbiamo messo in Parlamento o italiani brava gente, come dico io, o gli sportivi, i nomi famosi, attrici o quant'altro, insomma. Non è un paese serio, credetemi, non è un paese serio. E guardi che non faccio un problema di nostalgia, guardate negli altri paesi, nelle altre grandi democrazie europee, i loro parlamenti come sono formati, la loro classe dirigente arriva al Bundestag o nell'assemblea francese attraverso una selezione che passa attraverso gli enti locali. I primi ministri francesi in genere sono stati sindaci per moltissimi anni, noi invece facciamo così. Goliarditamente mettiamo il nuovo, perché il nuovo ha una forza salvifica che naturalmente si scontrerà con la realtà dei fatti. Però lei è stato finanziatore di questo nuovo a questo punto, Pomicino, finanziatore del Movimento 5 Stelle. Però salvatemi almeno le buone intenzioni, Sì, il Movimento 5 Stelle, io ho insistito, ha sempre avuto e ha ancora questo aspetto, purtroppo questo aspetto positivo, cioè istituzionalizzare il disagio, non lasciarlo fuori dalle assemblee elettive, però poi quando si è nelle istituzioni, non si può dire no a tutto e a tutti, si possono mettere delle condizioni, si possono verificare quelle le cosiddette alchimie tipicamente politiche, però c'è bisogno di assumersi una responsabilità. E diversamente abbiamo sbagliato tutti, a cominciare dal sottoscritto che ha dato 50 euro 7 anni fa. Sentiamo Danilo dalla provincia di Varese, buongiorno. Allora, buongiorno, Danilo da Varese. Allora, due cose velocissime, per non togliere tempo agli altri. Allora, lo squilibrio che esiste per il costo del lavoro, che può essere solamente bilanciato dai dazi doganali che prima dell'Europa c'erano. Secondo, se i grillini sbagliano sono giustificati perché non sono dei professionisti. Non riesco a capire come posso giustificare i professionisti per il disastro che c'è in Italia. Grazie. Penso che lei tra l'altro interpreti il pensiero di molti da questo punto di vista. Luigi ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo sapere solo esclusivamente una cosa. Perché nessuna coalizione, nessuna forma di partito parla della protezione delle famiglie, di mettere le famiglie in condizione di spendere o perlomeno di avere un pochino di ottimismo? Perché a me hanno insegnato che la famiglia è la base di tutto, anche della vita politica in Italia. Di questo non ho sentito assolutamente parlare nessuno e purtroppo oggi le famiglie che stanno male sono tantissime. Questa era la mia unica domanda. Volevo sapere se c'era qualcosa in giro che potesse spiegare questa... diciamo questo silenzio sulle famiglie o sulla protezione delle stesse. Credo, grazie, credo poca popolarità dell'argomento, Alessandro Barbera, alla fine. Che cosa, la protezione delle famiglie? Sì, cioè si preferisce parlare di IMU che tocca un po' tutti, no? E non andare su provvedimenti singoli. C'è poche riflessioni sulla politica per le famiglie da questo lato. È un portato di un paese che ragiona poco su quello che deve fare e continua a interrogarsi su quale dovrebbe essere la formula migliore per risolvere i propri problemi. Peraltro è anche abbastanza paradossale, perché l'Italia è un paese, diciamo, dove la cultura cattolica dovrebbe in qualche modo avere nei confronti delle famiglie una maggiore attenzione, ma è la nostra incapacità di guardare al futuro, perché in fondo poi aiutare le famiglie significa guardare al domani e puntare sui più giovani. Ieri sera a Ballarò c'era un servizio sulla protezione dell'infanzia e sugli aiuti che vengono dati alle famiglie in Austria. Insomma, è vero che l'Austria è un paese molto più piccolo del nostro, ma insomma il confronto era in qualche modo disarmante. La mia sensazione è che da un lato il problema è doppio, torno al 93, i cittadini pensano sempre che la politica debba essere in grado di dare soluzioni ai loro problemi, come la persona che prima pensava rinunciando all'euro potremmo risolvere tutti i nostri problemi. Stiamo chiudendo, Alessandro, scusami, stiamo chiudendo, grazie a tutti, ci sono molte domande, magari riconvochiamo Pomicino una volta, perché ci sono molte domande sulla casta, la vecchia politica, eccetera, eccetera, molto duri con Pomicino, magari una volta lo riconvochiamo, se ha voglia, noi chiudiamo qua. Mancano 102 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Radio 24. La passione si sente.